schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato due fiori, uno sono io, l'altro sei tu. E vorrei essere anch'io bello come sei bella tu. Ehi, sai è difficile restare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita. È una poesia senza veli, io vivo con i tuoi piedi, io vivo e grazie a te se sto in piedi. E non ci credi? Prova ad aspettarmi nel fiore più nascosto del mondo e sarò lì prima di te. Non è amore, è solo conoscerti a fondo. Scusa il disordine che mi confonde, ma tu sei troppe cose insieme. Non riesco a scrivere bene, non riesco e scrivo quello che viene. E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato due fiori, uno sono io, l'altro sei tu. E vorrei essere anch'io bello come sei bella tu. Oh, oh, oh. Ehi, qualcosa per i tuoi giorni. Quando ti chiamo e ti chiedo più o meno perché ora ritorni. E tu sei nel traffico e stridi perché ti senti incastrata, però poi torni e sorridi perché sai che in fondo è passata. Io lo capisco che a volte ti manca tuo padre. Io nei tuoi occhi lo leggo. Vorresti aver avuto un Natale, non tanto per un regalo, ma per sentirti un regalo che per qualcuno vali. E sei il diamante più raro. E per me sei questo, per me sei questo e altro. E non nascondere le lacrime che tanto scendono in basso. Tu falle cadere fino a che non diventano fango. Poi ritorno in quel posto, ci sarà una rosa e sarà maggio. Vorrei che ti guardassi con i miei occhi. Vorrei che ti ascoltassi con i miei sogni. Sai, la mia vita è soltanto un insieme di sogni e tu sei l'unica parte reale che voglio nei giorni, ehi. E quando il mondo ti schiaccia, provaci anche tu. Tira fuori il bimbo che hai dentro, non nasconderlo più. E ti ho portato due fiori, uno sono io, l'altro sei tu. E vorrei essere anch'io bello come sei bella tu. Oh, oh, oh, oh. Whoa!